faccio, sai cos'è? È un regalo semplice e perfetto, uno scambio d'anime dove non c'è mai nessun difetto. Ma perché non resti qui? Che ho bisogno di infinito. C'è qualcosa che non sai, buona come il cioccolato. La domenica è così, ha bisogno di coperte calde e di certi brividi da sentire forte sulla pelle. Siamo nati liberi, poi l'amore ha fatto il resto, è arrivato proprio qui e ci ha dato tutto questo. E benedetti siano questi istanti di baci piccoli ma così urgenti, da non poterli neanche trattenere, e che ci fanno stare solo bene, che hanno il sapore della primavera, di luna piena quando viene sera, che ci proteggono e non si spengono. Questa casa è come te, la conosco anche quando è buio, se c'è troppa polvere entra il vento freddo di gennaio, poi torniamo a ridere, poi l'amore ha fatto il resto, è arrivato proprio qui e ci ha dato tutto questo. E benedetti siano questi istanti di baci piccoli ma così urgenti, da non poterli neanche trattenere, e che ti fanno stare solo bene, che hanno il sapore della primavera, di luna piena quando viene sera, che ci proteggono e non si spengono. E benedetti siano tutti gli amanti, che sia di un giorno, di due, per riscoprire ancora l'emozione di certi baci dati a primavera, di quella luna piena quella sera, che non si spengono e si proteggono. Che tanto al cielo piace l'amore, a prescindere dal colore, dalla forma, dalla direzione, dal giudizio, dalla reazione di chi non ha capito ancora. Semplice.